Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, bentornati a un'altra puntata di Luce nelle Tenebre. Siamo Eleonora, Valentina e Lavisa, ciao a tutti. Questa volta siamo qua con voi per parlarvi di una giornata importantissima, la giornata di domani. E come sapete, o forse no, ma adesso lo saprete, ci sarà la giornata nazionale di Libera che si terrà nella nostra bellissima città. Quindi vi vogliamo tutti carichi e attivi a manifestare con noi e per questo questa puntata sarà dedicata a darvi un po' di informazioni su tutto quello che potrete fare durante questa giornata. Segnate tutto sull'agenda, mi raccomando. Grazie Vale che ci dà consigli fondamentali. Io inizierei parlando di che cos'è il 21 marzo e perché appunto il giorno del 21, perché innanzitutto il 21 marzo è il primo giorno di primavera, per cui è appunto quel simbolo della speranza che si rinnova, esce il sole, comincia a fare caldo. Quindi ci comunque sono gli uccellini. Sì, soprattutto a Bologna che sono i piccioni, sì. Ma detto questo, e quindi sarà poi la grande giornata di incontro con le familiari delle vittime che già da stasera arriveranno a Bologna e domani saranno con noi per tutta la manifestazione. L'evento nazionale di Libera del 21 marzo ancora non è una giornata riconosciuta a livello istituzionale, ma è come progetto quella di riconoscerla anche istituzionalmente, quindi con una legge apposita. Però non è sempre stata a Bologna, anzi è la prima volta che viene nella nostra città. Infatti c'è dal 1996 e in questi anni ha cercato di alternare un po' le varie regioni italiane, nord, centro e sud Italia. Ad esempio la prima è stata a Roma nel 96 appunto. Al sud per esempio ha fatto Reggio Calabria, ha fatto Corleone. Ha fatto Polistena in Calabria, Bari, Napoli nel 2009 e poi Milano nel 2010, Potenza, Genova, Firenze, l'anno scorso a Latina e quest'anno appunto a Bologna. Ci sarà il corteo che brevemente descriviamo il percorso, poi comunque ci sono i volontari, tra cui vabbè io sarò poi alla stazione per chi arriva da fuori, però per voi di Bologna il percorso, conoscendo già le zone, è questo: dallo stadio, dal Dall'Ara. E farà tutta Andrea Costa. Sì, via Andrea Costa. Sì, esatto, Andrea Costa, lo conosco molto bene per questo. No, vabbè, a parte questo, fino ad arrivare poi, passando da via Farini, quindi gira dietro di Piazza Maggiore, farà il tratto aperto di via Rizzoli per poi scendere su via Indipendenza. Da via Indipendenza tutta dritta, esatto, fino a Piazza 8 Agosto, dove si terrà il concerto di Musica contro le Mafie. E il tradizionale discorso di Don Ciotti con la lettura dei nomi delle vittime, molto lunga, perché simbolica. Appunto, come abbiamo detto all'inizio, ci saranno con noi i familiari delle vittime. A proposito di concerto, a proposito di musica, io direi di mandare un pezzo. Vale, e proponiamo Je veux di Zaza. Vai, buon ascolto. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Je suis comme ça. qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Eccoci di nuovo in studio. Ora, visto che abbiamo avuto una magistrale descrizione di cosa succederà la mattinata e sappiamo dove si svolgerà il corteo, adesso vi vogliamo dire un po' cosa succede nel pomeriggio, visto che non si manifesta tutta la giornata. Per i più facinorosi di voi magari sarà un peccato, però insomma, che parole usi, è importante la cultura. Comunque, adesso ci spiegano le ragazze. Un imbarazzo. No, perché sai, i veri intellettuali vogliono nascondersi, mascherarsi, ma non ce la fanno del tutto, quindi ogni tanto capita che ti scappi. A me non mi succede. Non avevo dubbi, Pisa. Comunque stavo dicendo, per i veri intellettuali tra di voi che non vogliono soltanto cantare i cori alla manifestazione, che al pomeriggio ci sono tanti interessanti seminari a cui si può andare in varie zone della città. Adesso magari le ragazze, le mie schiave qua, mi potranno dare qualche informazione su quello che succederà al pomeriggio. Magari non vi elencano tutti i seminari come se stessero facendo una lezione, però vi do anche le informazioni su come fare, perché non sono ben sicura delle cose. Premesso che l'elenco completo dei seminari potete trovarlo sul sito di Libera, iscrivendovi entro, credo, oggi pomeriggio. Quindi avete pochissimo tempo. Insomma, accendete subito il computer. L'iscrizione è gratuita e anche la partecipazione è gratuita. Ovviamente tutto quello che succederà domani è gratuito. Il peculiare dei seminari è il fatto che abbiamo già avuto, non so se vi ricordate, le puntate a riguardo sul contromafia, su quello che era successo a Roma, per cui i seminari riprendono i temi cardine delle giornate a Roma di contromafia. Per esempio, ricordiamo la campagna Libera Miseria Ladra, che ha come scopo non unico però principale quello di garantire il reddito minimo, il reddito cosiddetto per la dignità. Infatti ci sarà un seminario a riguardo, ci saranno poi, abbiamo affrontato il tema delle carceri anche a Roma, per cui verrà ripreso a Bologna domani, e ci sono una serie di seminari anche sulla scuola, ad esempio, sulle carceri. Sul legame tra scuole, cittadinanza attiva e responsabile, dove ci saranno anche tra i relatori i protagonisti, che erano quelli che poi erano stati anche alcuni protagonisti di questo laboratorio. Diciamo che i temi sono molteplici, verrà affrontato per esempio anche il tema delle ecomafie, quindi del danno ambientale, del reato, e quindi anche sia temi legali, ma anche poi visto che siamo anche vicini all'Expo, una versione nostra, diciamo la versione libera dell'Expo, e quindi temi anche di economia ecosostenibile. Ma non solo, oltre ai seminari un po' più seri, se siete stanchi e non avete voglia di ascoltare una conferenza, potete anche godervi un bellissimo film. Infatti la proposta, ad esempio, all'Odeon inizierà alle 2:30 un film intitolato La nostra terra, che parla della confisca e di riutilizzo di un bene confiscato in forma di commedia con come si chiama quell'attore molto bello? Accorsi, Stefano Accorsi. Lei lo sa, Lele. Ecco. Perché, tra l'altro, Stefano Accorsi ha studiato a Bologna un anno, non so se lo sapevate. Davvero? No, non lo sapevo. Di teatro di Bologna, poi un anno, perché poi fece quello spot molto bello del Maxi Bon. Vabbè, questo, scusami, Vale, non ti volevo interrompere. No, assolutamente. Per parlare di Accorsi, questo è altro. Poi, oltre ai film, ci sono anche alcuni documentari, tra cui quello che tratta dell'esibizione degli artisti della quinta edizione del premio Musica contro le Mafie, che è intitolato L'Alternativa, al Circolo Arci Millennium alle 2:30, oppure anche un documentario che si chiama Silenzio, che tratta Silenzio. Della questione messicana al cinema. Devi dire in spagnolo. Ah, dicelo tu, Bisa, che è la spagnolità della serata. Silenzio, ecco. Dove è entrato? Brava, Bisa insegna sbagliato. Infatti ero tornata in Spagna apposta, poi rifaccio la puntata e lo dico giusto. Però sono, diciamo che al 90% si dice così. Ok. E poi alcuni laboratori riservati ai ragazzi più giovincelli, tra i 15 e i 19 anni, e uno intitolato Libera Scuola in Libera Bologna, oppure Libera da Mafia e Corruzione, alcuni laboratori. Quindi, insomma, quello che si vince, che c'è tantissima roba e diciamo che non domani mancare. c'è da fare. Quindi vi aspettiamo numerosissimi. Farei una pausa, mandiamo appunto una canzone spagnola, visto che ormai siamo entrati in questo mood spagnoleggiante. Mano Sao, il pueblo unido, quello che speriamo di essere domani. El mio abuso de la luz es el Bentornati a Lucciole nelle Tenebre e continuiamo quindi a parlare della giornata di domani. Sì, precisamente ovviamente titola anche italiano, no, quello che sto cercando di dire con molta difficoltà è che domani è stato il risultato dei famosi 100 passi, quindi di questa serie di incontri che hanno appunto preceduto l'evento di domani. Tanti eventi ci sono state, tante forze, esatto, si sono dispiegate e domani diciamo è il culmine, però quello che resta, cioè sono state una serie di incontri che hanno visto protagonisti Giovanni Tiziano piuttosto che Nando dalla Chiesa, la Stramaccione, esatto, è aperto ormai da 10 giorni e sarà, continuerà a essere aperto con tutte le condizioni climatiche soprattutto esatto. Fino al 22 il ristorante in piazza 20 settembre, quindi se dovete prendere un treno così, cioè arrivate in stazione prima, così fermate a mangiare. Tra l'altro offrono una bella varietà di fritti, baccalà, sì, calamari, e la Vale è un'esperta perché ha fritto. Sì, perché chiaramente come tutte attività di libera si basano sui volontari, nessuno viene pagato, e ci siamo prestati anche noi a servire piuttosto che a cucinare. Lisa, tu sei andata solo per mangiare dai piatti, gli avanzi dai piatti, diciamoci la verità. No, non è vero assolutamente. No, sì, no, è successo. Ma no, più che non erano proprio dei piatti, erano i cori, la frittura, c'era il baccalà fritto, voglio dire, uno spreco, ma l'ho fatto per lottare contro la mafia. E per la Vale, che aveva fritto il baccalà per tutta la giornata, esatto, quindi non mangiarglielo sembra un po' insulto. No, scherzi a parte, ricordiamo che comunque i prodotti sono tutti delle cooperative e i soldi ricavato andrà alle cooperative che lavorano nei territori confiscati alle mafie, per cui oltre che a mangiare bene, perché il menù è tutto tema Sicilia, quindi dai arancini a cannoli. Passa la norma. Madonna, mi viene fame adesso. Tra l'altro è l'ora di pranzo, quindi fate una corsa, perché tanto la cucina resta aperta fino alle 2:30, quindi avete tempo. Se in questo momento non avete già mangiato, avete fame, avete il frigo vuoto, esatto, insomma, come il nostro. E si mangia molto molto bene. Poi comunque oltre che bene fai anche del bene, per cui ancora meglio, direi. È un bene al quadrato, insomma. Leonora invece non ha fatto niente in questi giorni. Io sono andata a ristorare e soprattutto io ho fatto da mangiare. Non mi lasciavano mangiare mentre lo facevo, a differenza da Bisa, quindi mi sento veramente sfruttata e discriminata. Comunque adesso, visto che abbiamo parlato a sufficienza, il nostro argomento preferito, che è il cibo, evidentemente. Ecco che cosa siamo dimenticate di dire: della libreria in Piazza Maggiore, sì, e dei banchetti, appunto, perché oltre che mangiare i prodotti liberi li potete anche acquistare, oltre tutte le belle magliette, le felpe. Pensate un po' quanto siamo versatili. No, e poi in questi giorni, questo magari un secondo momento di serietà, c'è stata, noi seguiamo come presidio universitario la campagna Riparte il Futuro, come però appunto anticorruzione all'interno dell'università, per cui si è svolta nei banchetti anche la raccolta firme. E, ovvio, un tema strettamente universitario, perché potevano partecipare soltanto gli studenti universitari come noi, però comunque si sta portando avanti e spero di aggiornarvi su questo tipo di progetto che stiamo portando appunto avanti. L'ho detto portare avanti un paio di volte, scusate. Non credo, Visa, non ho sentito bene. Adesso vi salutiamo davvero, non definitivamente, perché ovviamente arriva la nostra rubrica tra poco, e vi lasciamo con la canzone First Light degli Django come Django. L'ha detto bene, brava. C1 ragazzi, C1. City.